Ovviamente gli investitori, quando mi incontrano, mi chiedono tra le varie cose una cosa. Caro sindaco, che progetti ha lei sulle infrastrutture per il suo territorio? Qual è il futuro della città? Come ci si muoverà nella sua città e come si potrà arrivare nella sua città dal mondo? E qui veniamo a quello che è il nodo centrale e che non ci può far essere contenti fino in fondo di questi 3 anni e che appunto ci pone di fronte la sfida decisiva, che mi pare con grande chiarezza l'Assemblea oggi ha messo sul piatto, è quello delle grandi infrastrutture. Non ci sono opere belle o opere brutte, ci sono opere che servono e tra queste la nuova pista e lo sviluppo dell'aeroporto è un'opera indispensabile per la città di Firenze, per la regione toscana e vorrei dire per tutto il piano strategico di sviluppo aeroportuale del nostro paese. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Buonasera, bentornati su Fuoco alle Polveri, la puntata numero 78. La regia polverosa è alla grande, alla stragrandissima. Potete sentire la voce di Glande Lago, non potete vedere la faccia di Grippo, ma c'è, sentirete la sua voce fra pochissimo. Abbiamo anche l'Apo, abbiamo tantissime notizie, tantissime cose di cui parlare. Gli argomenti sono tanti, ma vanno tutti in una direzione, cioè la direzione di domenica 8 dicembre, secondo me è sbagliato perché sabato 8 dicembre 2018 si parco no aeroporto Cemento e Nocività, una giornata al parco e al presidio. 8 dicembre è una giornata speciale perché è una giornata di lotta e mobilitazione internazionale europea contro le grandi opere inutili e imposte, una giornata che vedrà attivi tutti i territori in più sedi perché c'è chi protesta, c'è chi si mobilita in Puglia per il NOTAP, c'è chi si mobilita in Sicilia, a Niscemi per i NOMUOS, li sentiremo, c'è chi si mobilita a Torino naturalmente con un grande corteo, sempre sabato 8, ma anche qui a casa nostra succedono cose perché al presidio della Piana vi sarà una giornata intensa a partire dalle ore 10 fino alla sera. Ne parleremo in seguito con un sacco di invitati, che invitati non sono, ma intervistati sì. E non vi anticipiamo niente perché Glande Lago ha una canzoncina pronta per noi. È vero o no? Certo. Oh, Glande Lago, grande canzone. Ciao amici di Radio Wombat. Helen Keller non aveva neppure 2 anni nel 1881, quando una malattia, probabilmente meningite o scarlattina, la colpì rendendola sorda e cieca. Molti pensarono che non sarebbe sopravvissuta a lungo, ma la piccola diede presto la prima dimostrazione di quello che era capace di fare, sviluppando un sistema di comunicazione con Martha, figlia della cuoca di casa. Da allora, anche grazie al supporto di Ann Sullivan, che la prese per mano e la guidò nel difficile percorso che la porterà prima a riconoscere e a distinguere gli oggetti, poi a leggere e a parlare, Helen fece passi da gigante fino ad arrivare nel 1904 ad essere la prima persona cieca e sorda a laurearsi in un college americano. Già durante gli anni di studio Helen si dedicò alla scrittura di un'autobiografia, pubblicata nel 1903, che segnò l'inizio della sua vita pubblica, fatta di viaggi e conferenze, durante i quali prendeva posizione a favore dei diritti dei disabili e degli operai, per il pacifismo e per il suffragio universale soprattutto. Ideali che portò avanti lungo tutta la sua esistenza. Si spense nel 1968, stracciando le previsioni che le avevano dato pochi anni di vita. Primo e ultimo straordinario successo di una donna che può insegnare a tutti a lottare. Da Cronache Ribelli, il giorno 3 dicembre 1881. Come tutti i lunedì, Cronache Ribelli ci accompagna in questo pomeriggio, oggi piovoso e anche di umore un po' altalenante. Un po' grigio, diciamocelo. Decidiamoci. Comunque non è il caso di pensare oggi pomeriggio, perché la settimana sarà intensissima, focalizzata, come già detto, sulla giornata di sabato 8 dicembre nel Parco della Piana, al presidio esattamente, con una camminata alle 10, poi un bel pranzo condiviso e poi infine un pomeriggio di dibattiti e collegamenti con i compagni Notav e con i compagni Notav. E proprio di Notav parliamo perché avremo in collegamento fra pochissimo Tiziano Cardosi, che è un attivista dei Notav Firenze, che da anni, forse è il caso di dire da decenni, studia e si mobilita per la causa Notav, il grande tunnel che dovrebbe attraversare Firenze dal sottoterra. Ma sentiamo direttamente la sua voce. Pronto Tiziano? Allora, eccoci qua. Tiziano, pronto? Pronto? Ciao Tiziano. Si sente? Sì. Sì. Oh, bene, buonasera. Otto. Ciao Tiziano, buonasera. Ci senti? Pronto? Forse mi sente solo dal microfono del telefono. Pronto Tiziano? Massimo. Benissimo, no, abbiamo risolto, ci siamo. I soliti problemi tecnici, ma stavamo parlando della giornata di sabato 8 dicembre al Parco della Piana, al presidio, dove sarete presenti anche voi in Notav Firenze, in occasione della giornata internazionale di mobilitazione contro le grandi opere. Se ci puoi aggiornare sulla questione Notav a Firenze, l'abbiamo seguita in passato e anche tutte le varie i vari problemini che ha attraversato, però sicuramente te puoi essere più chiaro sull'argomento. Sì, allora, la situazione è che i cantieri sono fermi ormai da più di un anno, da un anno e mezzo circa, praticamente non stanno facendo più niente, però tutti i problemi ambientali naturalmente restano in piedi. Lì nella zona dei Macelli e a Campo di Marte. Il fatto che i cantieri siano fermi non ci tranquillizza per nulla e non deve tranquillizzare per nulla nessuno. Prima perché con questi cantieri fermi i lavori teoricamente potrebbero iniziare in qualunque momento, ma nella pratica soprattutto i cantieri fermi stanno costando uno sproposito. Noi abbiamo visto l'ultimo bilancio di Nodavia, che è la società controllata da Condotte, che sta realizzando l'opera. E da questi bilanci pare che i costi di cantieri fermi, quei cantieri fermi, costino quasi 100 milioni l'anno. Dico 100 milioni l'anno. Cioè sono costi folli, sono i costi di una tranvia, ma di una tranvia grossa. Sono costi folli. e tutti a carico dello Stato, perché le ferrovie dello Stato naturalmente usano finanziamenti pubblici. È inutile che continuino a dire sono i nostri bilanci. I bilanci delle ferrovie sono rimpinguati per 8 miliardi l'anno dai fondi dello Stato. Che questi disperdino in progetti demenziali come quelli di Firenze è una cosa. Ecco, nel senso, a proposito dei progetti demenziali, si sta parlando di un tunnel che attraverserà Firenze sottoterra, non risolvendo i problemi della viabilità, e anche di una, di una stazione enorme che con un futuro dubbio. Sì, allora io do per scontato che tutti conoscano questo progetto, forse mi sbaglio, ma anche se è vecchio ormai, come progetto c'ha 20 anni, come inizio dei cantieri sono più di 10 anni, è stato realizzato pochissimo. Il progetto consiste in 2 tunnel di 7 chilometri dal Campo di Marte fino a Castello, sostanzialmente vicino a Castello, alle Tre Pietre per la precisione, con una stazione enorme che dovrebbe essere fatta sotterranea, realizzata nella zona dei Macelli. L'unica cosa che è stata realizzata è lo scavalco laggiù a Castello, che quello è finito in esercizio, ma è un'opera minore, costata circa 80 milioni di euro, e mentre gli altri lavori si sono concentrati soprattutto sulla stazione dell'alta velocità lì ai Macelli. È stato scavato il terreno per circa 8 metri e è stato realizzato l'impalcatura del primo solaio. I lavori in tutto sono circa il 20% di quello che doveva essere realizzato. Se si toglie lo scavalco siamo a meno di 15% di quanto si doveva fare, cioè praticamente nulla. Se teniamo conto che a fronte di questo nulla corrisponde, cioè il lavoro per la stazione, che pochino che è stato fatto a Campo Marte, è un valore di circa 210 milioni di euro, tenete conto che a fronte di questo Nodavia, cioè la ditta che realizza l'opera, richiede 520 o 530 milioni in più, ora non ricordo la cifra precisa, che vi rendete conto dello sproposito che sta diventando quest'opera, pur essendo lì ferma e secondo noi con le normative attuali assolutamente irrealizzabile. Ecco, fra l'altro una delle cose che le amministrazioni rivendicano è che le grandi opere portano occupazione, quindi per l'amor di Dio vogliamo sfatare questo mito? Voglio dire, ma come si fa? Cioè, io sono disperato quando sento dire questi discorsi, ma per tanti motivi, a parte l'esempio banale che abbiamo di fronte a Firenze, che sono poche decine di posti di lavoro. Cioè, teniamoci bene, i posti di lavoro sono sacrosanti e noi siamo solidali con quei lavoratori, fra l'altro di Nodavia, che non stanno prendendo gli stipendi da parecchi mesi e hanno ricevuto solo da pochi giorni lo stipendio di ottobre. Non lavorano, stanno lì senza avere nulla a fare perché i cantieri sono fermi, in luoghi senza riscaldamento perché Condotte, che è in fallimento, non paga nemmeno le bollette dell'energia elettrica. Con i lavoratori siamo assolutamente solidali, ma che le grandi opere creino lavoro e che il sindaco, presidente della regione invochino di fare questi lavori in difesa di pochi posti di lavoro è una vergogna per loro, è una cosa di cui si dovrebbero vergognare, perché con gli investimenti fatti, vi ripeto, vicino all'ordine del miliardo di euro, con i miliardi di euro non si creano decine di posti di lavoro, se ne creano migliaia di posti di lavoro. Ecco, fra l'altro, quindi non smettiamo di dire queste cose. Poi per quanto riguarda le grandi opere, se notate bene, sono quasi tutte grandi opere di gallerie. Le gallerie sono quelle che preferiscono perché necessitano di poca manodopera, relativamente poca manodopera, grandi macchinari, grandi investimenti di capitali e grandi profitti, perché le grandi opere non sono fatte per creare infrastrutture, perché l'Italia ha bisogno di pochissime infrastrutture, almeno di quelle come se di infrastrutture c'è bisogno di trasporto pubblico locale, non di ferrovie. Ecco, di appunto, andando nuove. Proprio a questo tema, intanto per l'attraversamento e per la TAV a Firenze ci sono delle proposte alternative molto meno impattanti e di fatto più realizzabili, intanto se ci puoi dire, certo, la più palese, quantomeno. Sì, no, ma per quello sì, abbiamo fatto anche degli studi, insomma, con l'Università di Firenze, con tecnici volontari negli anni passati, e abbiamo detto che questi soldi, se li volessimo investire veramente in maniera utile e creando posti di lavoro buoni, non soltanto in fase di cantierizzazione ma anche dopo, sarebbe quella di potenziare le linee di superficie. Noi abbiamo dimostrato, ma questo è un progetto che ha ormai 20 anni, che se vogliono costruire davvero due binari in più fra Campomarte e Rifredi Castello, si possono mettere in superficie con un costo di un decimo circa. Quindi è assurdo. Ma la nostra proposta è anche più ambiziosa, e noi lo diciamo chiaramente. Cioè, la nostra ambizione è di creare un trasporto pubblico laddove non c'è o dove è insufficiente. Per esempio nella Piana, se parliamo della Piana, andiamo nella Piana l'8 dicembre. Nella Piana praticamente non c'è trasporto pubblico, o perlomeno è estremamente frammentato. La nostra proposta è di costruire delle nuove ferrovie in quella zona, in maniera estremamente semplice. Si tratterebbe di proseguire la linea ferroviaria che arriva allo Smannoro. Io non so se avete presente, certo, quel viadotto celeste che c'è lì all'ingresso dell'autostrada. Ecco, certo. Quella ferrovia praticamente non è utilizzata per treni commerciali, è semplicemente per mandare treni a fare pulizia allo Smannoro. Ecco, dallo Smannoro con 2 chilometri di binari si arriva a Campi Bisenzio. Ecco, tornando proprio al servizio pubblico, è una delle cose che dicono le amministrazioni, è che la TAV risolverebbe i problemi del trasporto fiorentino, dei pendolari che arrivano dal Val d'Arno. Vogliamo sfatare anche questa diceria? Certo, no, assolutamente non risolvono nessun problema. I veri problemi di ingolfamento del traffico ferroviario sono a sud di Firenze Campomarte, cioè verso il Val d'Arno, dove c'è quella galleria del San Donato che ha 2 soli binari e dove si concentrano più di 200 treni a alta velocità al giorno e una ventina di treni per i pendolari. Ecco, il conflitto fra questi è il problema. Infatti il progetto è quello di chiudere la direttissima ai treni regionali e di mandarli sulla linea lenta, quella che passa da Pontassieve. Questo comporterebbe un aumento della percorrenza, cioè chi da Figline, chi viene a Firenze, invece di 12 minuti ce ne metterebbe 30 circa. Per arrivare a Campomarte, parlo tra Figline e Campomarte, adesso ci si mette 12 minuti, è una cosa che nemmeno le tranvie fanno, cioè sono velocissimi. Se si passasse da Pontassieve ci vorrebbero mezz'ora. Voi calcolate, allora 20 minuti più 20 minuti al ritorno, sono 40 minuti in cui condanniamo tutti i pendolari di Val d'Arno a passare su quei treni scarrettati invece di facilitare il trasporto dei pendolari. Quindi il sottotrapensamento non risolve assolutamente i problemi dei pendolari. Esatto. Tornando a sabato 8, appuntamento alla Piana, perché sì, ci siete? Allora, ci siamo perché è la nona giornata contro le grandi opere inutili imposte. È una giornata nata nel 2010 a ricordare in Val di Susa la ripresa del cantiere di Venaus. L'8 dicembre fu liberato, diciamo, dal cantiere, quel territorio, nacque lì il presidio e il cantiere attuale dell'alta velocità in Val di Susa non è più lì a Venaus, è alla Maddalena, dove hanno fatto quello scempio. E in più noi non siamo lì soltanto per le grandi opere, perché quest'anno, in questi giorni, è iniziata in Polonia l'assemblea dell'ONU sui problemi climatici del pianeta. COP24. Ecco, noi crediamo che questa cosa sia estremamente legata al discorso delle grandi opere. Le grandi opere sono energivore per eccellenza, oltre a non servire niente, consumano un sacco di risorse fossili soprattutto, quindi vanno assolutamente in rotta di collisione con quelli che dovrebbero essere gli interessi non nostri italiani, ma di tutta l'umanità, perché questo pianeta è l'unico ramo su cui siamo appollaiati. Se noi tagliamo anche quello, veramente è un disastro. Ecco, quindi crediamo che l'8 dicembre quest'anno sarà anche un modo per ricordare a tutti l'importanza dell'emergenza climatica, cosa su cui purtroppo non si riflette abbastanza. E io lo capisco, perché forse ci sono delle emergenze molto più contingenti, cioè la gente non arriva alla fine del mese, e mi ricordo sempre quello che ha detto uno dei gilet gialli in Francia, dice: ma che vuoi, le importi della fine del mondo se non riesco ad arrivare alla fine del mese? Una cosa brutale, ma purtroppo dobbiamo tenerne conto. Noi vogliamo ricordarci anche che vogliamo arrivare alla fine del mese, e vogliamo arrivare senza, certo, arrivare senza avere la fine del mondo. Bene, Tiziano, allora ci diamo appuntamento a sabato, noi ci saremo e benissimo, ci vediamo lì. Certo, ci saremo. Ricordiamo, ore 10 per la camminata nel parco, sì, c'è il lago. Sì. Ore 10, appuntamento al polo scientifico di Sesto Fiorentino, passeggiata al lago di Peretola, che è ancora un luogo molto bello, a volte ci sono anche degli uccelli molto belli, mi hanno detto ci sono sortono talvolta anche dei fenicotteri, ecco, quindi speriamo ci siano, e poi finiamo lì al presidio con un pranzo conviviale, e poi un'assemblea di tutti i partecipanti. Bene, allora grazie, a sabato. A sabato. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Figurati, ciao, ciao. Alla prossima. Eccoci qua, e si parlava di COP24, appunto la conferenza sul clima che si sta svolgendo in Polonia fino al 14 dicembre. Fra l'altro, curiosità, mi è capitato di... ci sono i compagni e le compagne di Recommon che si stanno occupando da tempo della situazione polacca, perché proprio a pochissimi chilometri, si parla di circa un centinaio di chilometri da dove si svolgerà l'incontro dell'ONU, la conferenza sul clima, c'è una delle più grandi miniere di carbone, punti di lavorazione del carbone, esatto, cioè, esatto, perché la Polonia, come anche altri paesi fra i quali l'India e non mi ricordo quali altri, stanno puntando fortemente sul carbone, uno dei minerali fossili da combustione che inquinano di più, forse il più inquinante, che si pensava fosse superato, invece mai. Vedi, Pizzo, quando parli degli smartphone, che mi devo comprare uno smartphone, il passato non viene superato mai, anzi mai. Torna in auge. Restiamo con infatti questa intervista l'abbiamo fatta tramite un telefono tradizionale, esatto, questo Bricobaldo, è vero, infatti sì, questa qui era un'intervista che avevamo già fatto praticamente, era stata già fatta, ma no, col mio telefono non era stata registrata, chissà perché. Non è che perché sostengo il mio smartphone, ti dico soltanto che nel senso che lo usiamo per, guarda, per poi alla fine l'abbiamo chiamato addirittura un numero fisso, Shippuden, sì, quindi. Capito, quindi siamo veramente sì. Ma nel frattempo mi sembra che mi sta arrivando. Ti sta squillando il telefono? Mi sta arrivando, sbaglio? Una chiamata. Ti arrivando una chiamata? Se non sbaglio. Sì, sì, sì, sì. Sì? Sì? Pronto? Sì, pronto, pronto? Oh, Mulo? Oh. Ciao, Mulo. Come sei sempre qua? Sì, sempre qua. Oh. Ma è Mulo da Radio Contato? Beh, da è Frittole. Proprio vero. Da Frittole. Oh. È proprio vero, è tutto vero. È tutto vero, mi avete proprio pizzicato il momento di svago, ecco. Che piacere. Perché, cosa è successo? Dici, non lo so. No, uno potrebbe raccontarvi che aspetta, sapete quelle storie bellissime, la campagna fino all'ultimo chiarore per raccogliere l'olivo, oppure senti la forza del trattore che spinge sui campi, invece no, oggi no, piove, non si fa niente, e ci stiamo spaccando di... sì, mi rende tipo tè caldo e streaming, quindi sì, siamo... mica male, è Frittole con lo streaming. Bene, bene, vi state preparando, immagino, per mercoledì, per la puntata di Radio Contato, no? Lì è già tutto pronto, c'è una pentola che sobbolle ormai da giorni e giorni, perché voglio dire, lo streaming però non si è specificato di cosa, perché stavo ascoltando la mia trasmissione preferita sulla mia radio preferita, indovinate cos'è che stavo... Non lo sappiamo. Ma che non so, Radio Contato. Carissimi. No, non ancora, dai, via. Non è che riascoltiamo tutti. Ascolti Radio 3, di la verità. No, non è vero, stavo ascoltando Radio 24. Radio Mythology. Stavo ascoltando voi, carissimi. Ah, e quello stavo, no, quello no. Bello, certo, certo. Lo streaming fa e non fa, però questo lo sappiamo benissimo, sì, in tutte le nostre potentissime regie. Sì, vero, ormai è di default. Va preso per, come, per quello che è, insomma. Senti, ma siamo pronti per la puntata di mercoledì, quindi che... Guardate. Tutti pronti, tutti caldi, te, Mulo, Camicia. Guarda, cari miei. Cari miei, allora c'è stato un supermercato venerdì che, in cui abbiamo raccolto un sacco di pillole interessantissime su Chef Rubio e Company, che innanzitutto va segnalata. Poi però il buon Camicia, abbiamo detto, o meglio ha accennato alla sua assenza mercoledì. Beh, ora io non... No camicia, no party, no, al contrario, no camicia, i topi ballano. E quindi questa chiamata... arriviamo al dunque. Vi ricordate quando lui continuava a blaterare di voler una poltrona perché il suo unico obiettivo... Ecco, quella poltrona l'ha lasciata vuota e si potrebbe fare una poltrona per voi. Gliela freghiamo. Guarda, ora ce la dici così, insomma... noi, certo che ve lo dico così. Cioè, era il nostro studio ferito, diciamo la verità, tra i conduttori di Radio Montato. Però se n'è andato, siamo pronti se a prendere andato, il suo trono. Vabbè, non stiamo troppo a calcare la mano, a questo punto niente, no, si viene a noi, dai. Cioè, tocca. Che dite? Si fa un mega featuring di quelli che neanche Rihanna... Proprio fuoco al contato mercoledì, esattamente. Dai fuoco al contato. Speriamo in una giornata di pioggia per limitare i danni, ma andiamo con fuoco al contato. Fuoco al contato mercoledì. Fuoco viva. Al contato. Avete sentito? Fuoco al contato. Cioè, bella. Allora, è tipo la notizia della settimana. È ufficiale, quindi è ufficiale. Possiamo ufficializzarla? Abbiamo accettato. Ufficialissimo. Noi, abbiamo accettato. Allora, mercoledì alle ore 14:30 in diretta sulle Wombat, fuoco al contato. La nuovissima, insimissima trasmissione di Radio Wombat, che non farà altro che prendere, cioè, vi porterà un fuoco da dentro fino a tutto ciò che vi circonda. Vampe caldane, bellissimo. Questo vi garantiamo, vampe caldane. Poi se ecco trovassimo la stufa accesa in quel contatto sarebbe ancora più carino, ma questo vedremo. Se è questo, vediamo. Bene, benissimo. Bellissimo. Allora, ma vogliamo anticipare che cosa ci sarà a fuoco al contato, un minimo? Allora, abbiamo anticipato cosa non ci sarà, ovvero il buon camicia. Il buon camicia. Quello che ci sarà, io non anticiperei troppo, buon Bricobaldo. No, però io so che gli amici di Frittole, appunto, raccogliono... agli argomenti di solito li decidono prima. È chiaramente tutto abbastanza organizzato, perché continua il tour dei nostri mercatari in piazza, su Piazza Tasso, quindi avremo un'altra voce della comunità, questo è sicuro, quindi non sarete gli unici ospiti. Dopodiché, chiaramente, così come state facendo voi, lo state facendo molto bene, anche noi avremmo voluto un collegamento dalla Piana, e quindi sicuramente la prima parte di trasmissione sarà quella. Dopodiché abbiamo pescato un altro asso nel gigantesco cilindro, o meglio, nel gigantesco mazzo di Genuino Clandestino, ovvero una registrazione di un'intervista fatta ieri con un contadino palestinese di Ramallah, che è a Milano per vendere il suo olio, e ti spiega quali cazzo sono i problemi del fare olio in Palestina oggi, ed è una bomba. È che gli segue gli ulivi. È questo il problema principale, forse ho spoilerato, però... Vabbè, è un po' stalkerato, però in tutto questo ripassiamo all'inglese, perché l'intervista è in lingua, stiamo lavorando su una registrazione in italiano. E dopodiché qua arriva il vero coccolo, non più al silicio sto giro, ma di terra cruda, che io vorrei darvi in mano la conduzione di una rubrica, che è quella del buon camicia. Il quiz. È tutto a rotazione, cioè non è che io possiedo una rubrica, ma la rubrica è a disposizione di chiunque voglia adoperarla. Giustissimo. Quindi noi dovremo interrogare i contadini, noi cittadini quiz dovremo interrogare dalla i contadini. Città praticamente. Fare una roba del genere, cioè avrete a disposizione un contadino, lo potete torchiare su tutto ciò che vorrete, e in questo caso il buon Claudio parla e soprattutto vive di produzioni veramente veramente alternative, però non è che vi dico cosa. No, non ci dire niente, basta. Non è, certo. Vi posso dire che non è CBD. Vi dico queste cose che si mangiano, ma non le mangiate spesso, quindi okay. Bam, bam. Mega curiosità. E poi chi lo sa, un po' di fuori onda, un po' di cazzate e poi tanto divertimento, perché se non ci si diverte qua non si bellissimo, gode. Bellissimo. Non aspettiamo altro che mercoledì noi, quindi ci prepariamo. Che passino queste giornate in fretta. Bene, dai, Mulu, allora mercoledì alle 2:30. Non mancherò, non mancherete, e un abbraccio a tutti quanti che stiano ascoltando in questo momento. Viva Radio Contado, viva Radio Wombat, a questo punto si può anche dire viva Fuoco alle Polveri, viva ma Mulo soprattutto e abbasso camicia, viva Fuoco al Contado, abbasso camicia e se ne va nei momenti sbagliati perché noi ricaviamo il posto. Poi oh, se, capito, se si piace si lascia laggiù, camicia, a rosicare. Bravi, lo facciamo rosicare per sempre, per rosicone. Sì, sì, un bacione, camicia, TGB, l'ho scritto sulla un abbraccio a voi. Bene, Mulo, un abbraccio a tutta Frittole. A presto, Mulo, a mercoledì. A presto, a mercoledì, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Beh, grande sorpresa. Questa è una piccola, un piccolo aperitivo di Fuoco al Contado. Che andrà in onda, l'abbiamo già detto mille volte. Mercoledì da Frittole. Che bello. Diamo una canzoncina per stemperare. Canzoncina. Sì, canzoncina. Ci vediamo fra pochi minuti. Wombat Wombat. Wombat dai, Wombat. Eh? So sick and tired of this world. All these women with their dreams shattered. From some man's sweaty, desperate touch. God damn it, I've had enough. When did you come? Yeah. contro Dario è una Dario stupenda. Fenomeno di incapacità nei libri di storia ci sarà solo se li scrive sua sorella. Eccoci. Lo sceriffo sindaco Nardella. Eccola. Eccoci la qua. Nardellata. La Nardellata della settimana. Allora, ricolleghiamoci a quanto detto a inizio puntata. Abbiamo sentito l'intervista con Tiziano, che si parlava dei tunnel sotto Firenze, ebbene sì, discorso stazione Foster, eccetera eccetera. Vi passo un contenuto di Nardella del 30 ottobre, che era al presidio davanti, era lì in via circondare dalle parti ai Macelli, dove ci dovrebbe sorgere questa famosissimissima stazione Foster. Ok, ve lo mando, è festa. Vai. Almeno sentite un po' cosa ne pensa il vecchio Nardi. Dai, un sacco che lo sentiamo, una settimana circa. Mandiamo un altro giro. Aspetta. Mette un sacco di allegria. Un altro giro poi lo mando, eh. Vai Nardi. Per questo il Partito Democratico ribadisce il suo sì alle grandi opere, in sì, particolare dai, a questa. Sì. Non ci interessa la polemica politica, no, a noi interessa che Firenze non venga penalizzata pesantemente. Vero. A noi interessa che i lavoratori tornino a Eccolo. Fare quello che stanno facendo. A noi interessa recuperare anche i soldi pubblici, che sono già stati spesi 800 milioni di euro per di cosa parlavamo un'opera prima? Che ormai è arrivata alla metà dello stato metà? Di avanzamento. Quanto si era detto prima? Non possiamo meno. Lasciare 15%. In una situazione di totale incertezza quest'opera pubblica che serve prima di tutto ai fiorentini e ai Eccala, toscani. Eccolo. Voi avete intrapreso azioni legali per quanto riguarda Bravo. Il piano periferie. Potrebbe essere un'idea anche per le grandi opere questa, oppure l'aeroporto, se dovessero essere bloccate. È chiaro che noi valuteremo qualunque strada per difendere Firenze, anche la strada legale. Prima di allora però continuiamo a credere che non si possano chiudere gli occhi di fronte a tutto questo. Il governo ha dovuto fare marcia indietro sulla TAP in Puglia perché si è reso conto che quando ti confronti con la realtà, quando ti confronti con i posti di lavoro, quando ti confronti con i soldi pubblici già impegnati, non puoi scherzare. E siamo convinti più che mai che lo stesso valga per Firenze. Ma posso farti una domanda? Sì. Ma ti ricordi quando Nardella diceva che doveva vendere tutte le case popolari, o almeno buona parte delle case popolari, per finanziare le grandi opere? L'anno scorso, onde? Era poco fa. Poco fa. Non ce l'ho un estratto di... No, era un articolo uscito, non mi ricordo... Insomma, è uscito su tutti i giornali, ecco, poi... Ne abbiamo parlato. Ma era scorsa, tipo... Eccola. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare i curatori della pagina Facebook Warrior Nazdella, perché niente, hanno fatto, andatevelo a vedere, c'è un estratto video che è praticamente montaggio. La Nardellata di due settimane fa. Vi ricordate se era visto tutto vita da sindaco di Nardella, lui che scucca la persona che va a pisciare, le due vecchie in motorino, il materasso, le vecchie razziste, gli alberi alle cascine, la buca, tutti quei discorsi là. Hanno fatto un montaggio video come fanno su questa pagina, e insomma bellissimo, cioè ne sono stato veramente contento nel guardarlo, sempre da Wario Nazdella, sempre da questa pagina Facebook che non possiamo fare a meno di segnalarvi continuamente. E c'è un contenuto da... Vi ricordate la convention a cui aveva partecipato Nardella sulle smart city? Sulle di spagnolo. Esatto. Il video si chiama WhatsAppella e parla dell'applicazione. Sentite un po' in questo mixaggio, grazie a Warrior Nazdella. Qui a Barcellona, al World Smart City, abbiamo lanciato la nuova app di Firenze, una application che si chiama Più Firenze e che si trova su tutte le applicazioni, application, Smart City, application, innovation, consente al cittadino di mandare direttamente al comune delle segnalazioni sulla viabilità, sul pubblico. Questa è l'Akbar. Queste segnalazioni si fanno con un sistema molto semplice che il cittadino può utilizzare indicando l'indirizzo e anche la categoria verde pubblico, strade, relitti, rifiuti. Ad esempio sulle strade ci sono diverse tipologie di interventi richiesti, pensiamo alle buche, manto stradale, marciapiedi, si può descrivere il problema essere più questo punto il sistema del comune lo elabora e la società di Global Service di manutenzione del verde delle strade interviene. Siamo in grado anche di dare un feedback al cittadino che segnala, ovviamente a seconda del tempo e della complessità dell'intervento. È un modo nuovo, intelligente e semplice, per finire. Appunto smart. Smart. Smart per l'appunto. Appunto smart. Che fatica. Smuove. Che permette ai cittadini di dare una mano all'amministrazione, dai, di collaborare per la cura e la manutenzione della nostra città. Ma sì, più ma Firenze. Veniamo a dartela noi la mano se vuoi. Ma veniamo direttamente a dartela. Bellissimo, comunque l'applicazione che funziona su tutte le applicazioni è bellissima. È un'application che funziona su tutte le applicazioni. È un'application alla seconda. No, poi geniale il montaggio sotto di Renzi che fa With Innovation. Sì, che va preso da un video, no? Sì, sì, sì. Non ve lo siete visti sul canale 9 voi, Matteo Renzi? No. Ce lo siamo persi. Vabbè. Non ci siamo persi un'altra notizia della scorsa settimana, datata 30 novembre. Firenze, l'annuncio di Nardella: vigili a bordo dei bus ATAF. Il sindaco, noi pronti a fare la nostra parte, l'azienda faccia la sua. La parte per fare cosa? È la tua grande domanda. Non si capisce che ci fanno i vigili sull'ATAF. Appunto, questo non si capisce tanto. Guardano che è bianco e che è nero. Vigili urbani sui bus dell'ATAF di Firenze, sia a protezione degli autisti, sia per il controllo dei furbetti del biglietto. Furbetti, lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella a margine della presentazione del progetto Up to Young. Ma io comunque una proposta gliela vorrei fare. Caro Nardellino, ma sui bus perché non fai come in tutte le città del mondo praticamente? Si entra dall'ingresso, dalla porta davanti, si timbra, si fa vedere il biglietto e si esce dalla porta di dietro. Non è che ci voglia chissà quanto per fare una cosa del genere. Ci puoi mettere anche un tornello se fa cosa una merda. Però, cioè, nel senso, ora i vigili mi sembrano i vigili sull'auto perché rimangono senza lavoro se no i vigili urbani. Ah, vero, ma ne assunti, guarda, ne ha ricordato Nardella, proseguo nell'articolo, assumeremo 100 agenti di polizia municipale. Qui tutte le settimane dice ne assume 100, 200, dipende. Ora, se le ha assunti davvero tutte le settimane, ma li fa assumere alla Cassa dei Risparmi come sì, che gli altri? No, qui non c'è scritto niente di questa cosa qua. Quelli della Cassa dei Risparmi erano un paio di settimane fa, era una ventina, trentina, metà pagati dalla Cassa dei Risparmi, 16, 2, 8 mi sembra dal comune, 8 dalla Cassa dei Risparmi. Però effettivamente questo qua probabilmente è un concorso che c'è stato qui, altri 100, tutti giovani sotto i 32 anni, vero? Una parte di questi sarà impegnata anche sugli autobus. Il sindaco si è poi rivolto ad ATAF: la nostra scelta, ha detto, però ha bisogno di un'iniziativa altrettanto efficace dell'azienda, perché la protezione dei propri dipendenti spetta prima di tutto al datore di lavoro. Sì. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ATAF faccia la sua. Quando è in gioco la salute e l'incolumità dei lavoratori, io certamente mi preoccupo e credo che l'appello e il messaggio di grande preoccupazione degli autisti non debba essere sottovalutato. Caro Nardellino, se magari non la vendevate alla prima multinazionale che passava, cioè forse ci avevi un pochino di voce in capitolo, ma adesso chi ti incula? A parte noi. Ma pochi, anche perché tutti i video che trovo, continuo a sottolineare, ho cercato un po' di video Nardella, TAV, insomma dichiarazioni varie, tutti questi video avevano 10, 8, 12 visualizzazioni, quindi veramente siamo tra i pochi cultori della materia, o comunque tra i pochi che si rimanno a cercare appassionati su YouTube. Affezionados. Esatto, e se una di queste visualizzazioni è nostra, vuol dire che ce ne sono le altre 8, non una so, mia, una tua. Una mia, una quindi, tua. Insomma, questo è un appello al social media manager di Nardella. Guarda che sbagli mire, cioè, noi cerchiamo altre cose tendenzialmente. Va bene, la Nardellata di questa settimana la si può dire conclusa. Non c'erano molte cose, anche dalla newsletter di Dario Nardella è stato meno vivace delle ultime settimane Bonnardi, si vede insomma che sente anche lui l'avvicinarsi del Natale, forse non... Può darsi, non lo so. Sì, si dà una calmata secondo te per Natale? No, no, no. Sì, anzi, me, no, per anzi. Niente, no, ragazzi, per la grande ora... esplosione del Natale probabilmente, cioè, ora c'è un attimino di tranquillità inizio dicembre, dopodiché ci aspettiamo colpi di scena, ci aspettiamo una Nardellata più frizzante che mai per la prossima settimana. E... niente. No, no, ragazzi, ma lui deve fare una super corsa, c'ha le lezioni fra un po', quindi... E quindi... Sarà stra impegnato. Sì, quindi... E quindi ci fornerà un tantissimo materiale per le prossime Nardellate da qui all'eternità, praticamente. Grazie, Nardi. E quindi... E... Chatta la buca. La fototrappola. Ti beccherà. Vuoi la schiacciata? Anche lo stadio. Presto farà. Con l'aeroporto. Ci stupirà. Questo è il decoro di Nardella, yeah! Hai ascoltato Contro Dario. Via. Metto un po' di sottofondo nel frattempo. No, andiamo. Ma io andrei anche con una canzoncina. Dopo tutto siamo alla radio. E si ritorna subito. Si riparte con Nardellata? No. Di nuovo? Comincia. Via. Si buonasera, comincia. Bentornati su Favole Polveri. E bentornate anche. Abbiamo qui la Nardellata di Grippuden. C'è stato un aggiornamento da Nardella. Un errore di Matrix. No. Torniamo alla giornata di sabato, perché ci sono tantissime cose interessanti. Uno erano. Cosa? Una dichiarazione. Ma io voglio mandare una canzoncina. Dai, manda una canzoncina. Manda una canzoncina, allora, canzoncina, dai, canzoncina, canzoncina, forza. Non indugiare oltre. Uva Le Monde delle Sfemmo. Wait, wait. Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, y'a toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Mais moi, che dato che si supportano delle battaglie giuste dobbiamo essere denigrati in questo modo costantemente, ma tanto più ci infangano più cresciamo e prima o poi in questo paese si tornerà a votare, prima o poi, e con il governo del Movimento 5 Stelle quest'opera la blocchiamo in due settimane, in due settimane, in due settimane, in due settimane, in due settimane, in due settimane. Tanto? In due settimane. Due settimane, in due settimane. Se non si fosse capito, ma sono passate queste due settimane, giusto? Due settimane più tutto due bloccato. Settimane più due settimane. Più due settimane, più due settimane, più due settimane. E poi... No. A cosa si riferiva intanto il nostro amico Diba, che potremmo raccontarne tantissime, ma ne citiamo una sola. No tap. Si stava parlando delle no tap, era in campagna elettorale e lui naturalmente faceva il suo show di fronte agli attivisti no tap. Ce l'ho anche io un piccolo show del Diba da proporre più tardi, anche uno show di Sufà. Sì, anche Sufà, ma che famiglia, ma che famiglia, signore. Ma non l'abbiamo mai detto, io mi ero ripromesso di comunicarla questa cosa, perché c'è stato un comunicato qualche settimana fa degli zapatisti. Saprete benissimo che Di Battista adesso gioca a fare il giornalista, sta scrivendo questo fantastico reportage dall'America Latina e per l'appunto si è recato in Chiapas, dove è stato cacciato a pedate. È stato cacciato a pedate perché? Perché intanto ha mentito sulla sua identità, cioè non ha detto che è l'esponente di un governo che sta governando con un partito di estrema destra. Loro non è ben definito. Ma perché secondo me lui si sente un po' un Che Guevara. Sì, non ha neanche detto che era un giornalista, ad esempio, non ha mostrato la tessera. È stato sgamato. Ha scritto sul suo reportage delle cose da che fanno veramente drizzare i capelli in testa, se ti rimangono i capelli, perché delle banalità veramente Vabbè, lasciamo perdere. E quindi è stato cacciato in malo modo, non ci può più mettere piede, ma sta andando a giro ancora col suo passeggino per i sentieri dell'America Latina. Quando tornerà, ricordiamoci di tirargli un po' le orecchie per le cazzate raccontate e dette in tutti questi tempi, in tutto questo tempo. Ce ne abbiamo altri contributi su Di Battista and Family? Sì, vuoi? Sì, ma forse possiamo andare con la seconda intervista, perché il tema è sempre quello di prima, alla giornata di mobilitazione internazionale, e partecipano tante realtà, ognuno nel suo territorio. È stata decisa di spalmare questa giornata nei vari territori in lotta. Uno di questi è sicuramente, si parla della Sicilia, a sud della Sicilia, nel Ragusano, esattamente a Niscemi, dove sorge il MUOS, la grande antenna, una delle quattro grandi antenne che stanno nel mondo per guidare la guerra da lontano. E è una battaglia lunghissima degli Stati Uniti, sì, degli Stati Uniti, imposta anch'essa. E abbiamo intervistato Pippo, che è un attivista no MUOS, è passato a Firenze per altre cose, lo abbiamo conosciuto perché ha presentato un libro presso gli spazi della Polveriera Spazio Comune, per esattezza l'anarchia spiegata a mio figlio, molto molto molto bello, carino. Un pamphlet praticamente, sì, tradotto fra l'altro recentemente in spagnolo. In spagnolo e in francese? In francese, c'è, cioè, in campo una traduzione anche, esatto, in serbo, se non sbaglio, una, sì, cosa del genere. Sì, sì, sì, sì, esatto. Un bel libretto. E lui è un attivista no MUOS da molto tempo, di lunga data, e sentiamolo. Sentiamo le sue parole. Abbiamo partecipato a tutte le fasi nazionale di preparazione, diciamo le ultime assemblee nazionali fine settembre, ottobre e novembre, in cui anche questa proposta è stata esaminata, in particolare nell'ultima Benaust. E questa giornata sostanzialmente è una giornata internazionale che si articola con manifestazioni territoriali. In Italia sicuramente c'è quella importantissima di Torino, che anziché in Valsusa si svolge appunto a Torino per una serie di note circostanze, mentre noi in Sicilia ci concentriamo a Niscemi con un corteo regionale in perfetta sintonia con la scadenza contro le grandi opere, pur sottolineando che il caso siciliano, il caso del MUOS, non è un caso di una grande opera, ma è semmai il caso di una grande opera militare di portata internazionale degli Stati Uniti, e quindi diciamo è sì, un po' disposta dalla tipologia delle grandi opere impattanti sul territorio che ci sono, perché questo, oltre ad avere l'impatto sul territorio molto negativo per le onde elettromagnetiche, quindi sulla salute e sull'ambiente, ha una valenza di macchina da guerra, di strumento altamente tecnologico per condurre le guerre di oggi e del futuro, e quindi diciamo chiaramente non è una grande opera nel senso tradizionale come intendiamo, così, certo, come anche la lotta no MUOS non può essere considerata una lotta territoriale, perché è una lotta che ha una portata quantomeno internazionale, no? Anche, ecco, e cosa rappresenta la lotta contro i MUOS? Ma guarda, la lotta contro il MUOS è in primo luogo una lotta contro le guerre, contro la militarizzazione, perché il MUOS è un mega sistema planetario internazionale con quattro impianti in tutto il mondo, di cui uno è in Sicilia. E Niscemi dentro un parco, tra l'altro. Niscemi dentro un parco naturale, e che permette agli Stati Uniti di avere una copertura di tutto il globo terrestre, una copertura a livello di controllo, di comunicazioni e anche di intervento militare, di un intervento che grazie a questa macchina, a questo strumento che è il MUOS, è istantaneo, immediato e velocissimo, no? Quindi una capacità di muoversi e di controllare che nessun altro possiede al mondo. Quindi diciamo chi lotta contro il MUOS sa che non è solo la lotta contro quelle tre parabole che sono ubicate lì in quel posto, nella sughereta di Niscemi, all'interno di una preesistente base degli Stati Uniti d'America, dei Marines e non della NATO, preciso, ma sa anche che la lotta è contro questa grande macchina planetaria, quindi la controparte, diciamo, è l'iberoamericano, è l'imperialismo, è il militarismo, quindi è chiaro che l'impatto e la portata di questa mobilitazione va ben oltre il territorio, benché poi il territorio sia la prima linea, sia anche l'ambito in cui si subiscono delle conseguenze accadute, certo, della esistenza di questa struttura. Questo anche motiva il fatto che è aderita a una giornata di lotta europea, e quindi si tratta di portare le proprie lotte, così come fanno anche i NOTAV, così come fanno anche i NOTAP. Vorrei chiedervi se trovate un'analogia ulteriore con i NOTAP e i NOTAV, visto che nonostante le promesse elettorali gli altri due movimenti si sono trovati in grosse difficoltà con il governo attuale per come si comporta e per le promesse che aveva fatto. Allora, l'analogia in questo ambito c'è, diciamo, una similitudine addirittura. È chiaro che noi nel nostro ambito, forse anche meno che nel Salento e in Valsusa, siamo stati il movimento che ha meno riposto, anzi quasi niente, riposto fiducia nei 5 Stelle. Cioè, non sono stati semmai i 5 Stelle a fare proprio la parola d'ordine del no al MUOS, ma il movimento non è stato né fiancheggiatore né ha mai invitato a votare 5 Stelle, quindi ha sempre sostenuto che non ci sono governi amici, che i governi li giudichiamo semmai dai fatti e non dalle parole. E quindi la similitudine però nel fatto che comunque loro avevano fatto delle abbondanti promesse rispetto al MUOS, che poi regolarmente hanno dimenticato, e non solo dimenticato, ma tradito una volta che sono al governo, dove tra l'altro hanno il Ministro della Difesa, hanno il Presidente della Commissione Difesa, hanno il Ministro della Salute, tre soggetti che avrebbero potuto dire la loro in coerenza con quello che hanno sostenuto in campagna elettorale, che invece hanno agito completamente all'opposto, in perfetta linea con i governi precedenti, che erano di centrodestra, di centrosinistra o tecnici, che hanno tutti portato avanti questa militarizzazione del nostro territorio e questo progetto. Poi per di più, in tutto ciò che è politica militare, il governo Lega 5 Stelle ha fatto le cose più sporche, dall'acquisto degli F-35 all'aumento del finanziamento alla NATO, dalle conferme delle missioni militari e rifinanziamento delle missioni militari all'estero. Quindi non è che ci potevamo aspettare che poi sul MUOS invece avesse una posizione contro gli americani, è quasi impossibile, non ci crediamo. Ecco, quindi le ragioni di queste posizioni sono da ricercare a livelli ben più alti rispetto a quello che è il nostro governo. Esattamente, perché su molte cose questo è un governo che è succube, o quantomeno è complice, più che altro forse è meglio dire complice, sia di tutto ciò che è politica militare, strategie militari, quindi politiche belliche, e di tutto ciò che vede anche il caso Libia per esempio, e di tutto ciò che è capitale, gran capitale, Confindustria, nonostante si riempino le bocche contro le banche, contro l'Europa, poi alla fine sono molto legati a certi settori bancari, sono molto legati a certi settori del capitale, quindi per questo riteniamo molto importante che tutti i movimenti del no sparsi nei territori, dai più grandi ai più piccoli, dai più conosciuti ai meno conosciuti, riescano ad essere a trovare un momento corale di mobilitazione che sarà ancora più forte poi il 23 marzo, quando ci sarà una grande manifestazione a Roma di tutti i movimenti, quindi diciamo saremo tutti uniti in quel momento, perché oggi queste realtà, tutti questi no, rappresentano un'idea diversa di come deve funzionare un paese, di come devono essere rispettati i diritti delle persone, l'autodeterminazione dei territori. Ecco, esatto, voi nel comunicato parlate di autodeterminazione, spiegateci che cosa intendete. Significa che chi vive in un determinato territorio deve poter dire, esprimersi sulle scelte che concernono quel territorio. Significa che imporre opere impattanti, imporre strumenti, militarizzare le terre va contro il diritto dei popoli a poter vivere in libertà e in serenità e in benessere nella propria terra. Tutto ciò, tutte queste politiche, dal TAP in Salento al no grandi navi a Venezia, al no dal Molino a Vicenza, a tutti i comitati contro gli inceneritori, tutte queste realtà che sono nate dalla rabbia dell'essere stati calpestati nella propria volontà, nel proprio rifiuto di certe cose, oggi rappresentano un grande movimento che dai piccoli territori alla fine richiede e cerca di resiste, cerca di imporre anche l'autodeterminazione di tutto il territorio nazionale, cioè la possibilità che siano le gente che subiscono a poter decidere le politiche positive che vanno fatte sui territori anziché subire le politiche negative, le strategie, gli interessi poi delle mafie, delle grandi imprese, certo, o degli eserciti sui territori, che è tutto ciò che oggi noi vediamo. Quindi tutti questi noi in realtà non sono dei fronti di rifiuto, sono dei fronti in cui c'è un'idea ben precisa di come bisogna mettere in piedi delle condizioni economiche, sociali, politiche, perché la gente, soprattutto le classi lavoratrici, i precari, i pensionati, insomma il popolo, possa affrontare la propria vita in maniera molto migliore rispetto a quella che il capitale impone. Ecco, ricordiamo che le spese militari italiane sono veramente ingenti, oltre che in aumento, e potrebbero sicuramente essere utilizzate in un modo migliore. Intanto allora rimandiamo gli appuntamenti dell'8 in Sicilia, a Necemi, sabato prossimo, e del 23 di marzo a Roma, se ci vuoi lasciare un contatto dove poter leggere i vostri comunicati o comunque comunicare con voi. Allora, noi abbiamo un sito che www.nomuos.info, dove che è aggiornato quotidianamente, dove ci sono tutte le notizie riguardo la nostra lotta, i nostri comunicati, tutte le fasi, tutte le scadenze. Nomuos.info è il sito ufficiale del movimento Nomuos. Bene, allora grazie Pippo, a prestissimo. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao. Rieccoci. Allora, abbiamo sentito Pippo dei Nomuos. Ringraziamo tanto, ringraziamo sia per la presentazione di Polveria settimana scorsa, sia per questa intervista e per il suo attivismo, direi, continuo e da lungo tempo. Sì, e anche per il coraggio dei Nomuos, che stanno lottando veramente contro una roba... Sì, che è una roba abbastanza fuori di testa, no, perché siamo abbastanza abituati a cose del genere, però è una... è una lotta antimilitarista prima di tutto. Quindi sì, decisamente. Ce n'è sempre bisogno. Sì, fra l'altro ho visto sulla loro pagina, hanno scritto diverse cose su Camp Derby, che invece è proprio accanto a noi, sta a Tirrenia praticamente. Uh-huh. Che quante bombe ci teniamo lì a Camp Derby? Boh, quante? Tante, tantissime. Vai, senti, ma qui c'è Grippo che smania. Perché smani? Ma perché c'è qualche altro contenutino. Hai stuzzicato la questione 5 Stelle, Di Maio, Di Battista, così. Piccolo estratto da Di Maio sull'argomento TAV e grandi opere. Via. Non farò mai un'opera come Ministro dello Sviluppo Economico, non autorizzerò mai. Un'opera che Ridillo. Si faccia con... poliziotti in assetto antisommossa e filo spinato. Non serve a niente farle così, non si faranno mai. Poi dico. Eccoci. Questo intanto. Oh, mai, eh? Gigino Di Maio, ok, 3 mesi fa. Un altro estratto da Di Battista, poi andiamo a sentire anche il babbo di Di Battista. Sì, bellino lui. Era abbastanza interessante. Questo Di Battista, 4 mesi fa. Tutti gli altri ministri del movimento dovrebbero avere lo stesso identico coraggio di Luigi. Abbiamo fatto come battaglie Gigino. Importanti contro il TAP, contro il TAV, opere del tutto inutili, sulla legge anticorruzione, a sostegno dei cittadini e dei risparmiatori contro il monopolio, la bancocrazia. Coraggio? Questo è il momento di spingere, eh? Mica ci possiamo lasciare distrarre dalle dichiarazioni oggi in altra roba sul razzismo. Basta, questa è distrazione di massa, eh? Lo dico, il movimento deve fare il movimento, eh? Quello che sta facendo Luigi, dritti, come treni, con coraggio, dicendo no quando abbiamo detto no. No. Ribadendo i no sani che abbiamo detto con forza, perché ci abbiamo preso i voti anche su quella roba là. No. Se no. Andiamo a sentirci invece un contributo da Babbo Di Battista di un Eccolo. Mese fa. Tutto in famiglia. All in the family. Sulla TAP credo che non si farà. Sulla TAP se si farà rimarrò deluso. Sono contrario alla TAP, alla TAV e alla famiglia Benetton. Sulla TAV credo Mettiamoci che non si farà. Sulla TAP se si farà rimarrò deluso. deluso, del resto ho diritto ad esprimere, certo, ad esprimere, certo, esprimere opinioni e diritto ad essere entusiasta, contento, deluso, incazzato. Io da quando sono nato sono un uomo libero, non vorrei che infatti qualcuno mi esprimo, qualunque mi esprimo cosa come voglio, sarà sempre positivo. Qualunque cosa accada sarà sempre positivo. Qualunque cosa accada anche questa sarà è una bella sempre positivo. Nonostante queste frizioni tra i 5 Stelle e Lega, su... sono frizioni? Non so. No, frizioni. Io non me ne so accorto. Davvero? Ragazzi, no. O mi pagate con un congruo compenso oppure non rilascio interviste. Bravo. Ecco, oh, del resto. Bravo. Chi è che gli dà 15.000 euro al Grullo di Lignano? Da chi? Chi? Cioè 15.000 euro per dire una puntata di cazzate. Le mie valgono di meno, quindi 1.500 euro invece che 15.000. Vero. Un tempo li mandava via a calci i giornalisti, ora addirittura non sto a pagare. Scusi, ma questo governo schiacciato dalla A me va benissimo. Lega. Schiacciato dalla Lega. Schiacciato dalla Lega il governo. No. Io non lo vedo, io vedo Salvini schiacciato da Berlusconi, non vedo il governo schiacciato da lui, è una mia visione, non vedo il governo schiacciato da lui, è una mia visione. E ribadiamo, non vedo il governo schiacciato da lui, è una mia visione. Cambiano i tempi. Sì, cambiano i tempi. Sì, ma questo era un mese fa, cioè, sì, sì, ma cambia velocemente. Era lì alla situazione di... In che situazione si sono cacciati questi ragazzotti? Sì, nel frattempo Salvinone sbombarda. Ha arruolato i suoi nemici come testimone della manifestazione dell'8 dicembre. Non so se l'avete visto, ha preso vari volti noti, ci ha messo il simbolo elettorale della Lega Nord. Ha scritto: lui non ci sarà, lei non ci sarà, lui non... Chi ha preso? Saviano, Renzi, La Boldrini, Fazio, Asia Argento. Gli amici di Salvini, insomma. Tutti i più intimi, più stretti. Più intimi, sì, però. Anche li ha presi e li ha urlati tutti dicendo che non ci saranno alla manifestazione d'otto. Mm-hmm. Quindi, insomma, per rafforzare ulteriormente il tutti tema... con Salvini, insomma. Esatto. Va bene, tutti. Dai, noi però rilanciamo invece la manifestazione dell'otto. Forza, certo, tutti, tutti, che sia a Torino, che sia a Niscemi, che sia in Salento, che sia nella Piana. Speriamo, chi ci ascolta tendenzialmente nella Piana. E forza, bisogna farci sentire, la nostra presenza è fondamentale su un argomento, quello dell'aeroporto, che è, si può dire, cruciale per, la per tutti, per, sì, per la Piana, ma non solo per la Piana, perché che se ne dica, è una roba che, insomma, muove veramente tanti tanti soldi, e quindi quando ci sono tanti tanti soldi ci sono anche tante tante tante persone influenti che faranno di tutto e farebbero di tutto pur di portare a termine un progetto del genere. Un progetto del genere è stato detto e ridetto, presentato, raffazzonato in fretta, quasi impresentabile, beh, con le conseguenze però che saranno reali e concrete su tutti noi. Perché? Perché? Ma perché si è così? È così, sì. Caro Grippo. Così. Non vedevi l'ora di avere un aeroporto sulle teste così non grosso. Vedevo l'ora, sì, più che altro non ci sono alternative, no? Cosa dice no, il ma che scherzi, cioè, no, lo Zionardi sostiene che non puoi andare in un'altra regione a prendere un aereo internazionale. Infatti Pisa, da che mondo è mondo, dalle parti di Pontedera si cambia, sì, regione, certo, cioè, sì, no, la infatti... Pisonia, cioè da quelle parti laggiù il Pisistan, sì, io in Pisistan non ci vado a prendere l'aereo, fosse la mai, non scherzi, no, ti a pigliare malattie. No, porca troia, poi, cioè, vai a sapere, quei bus carri bestiame, no? Ma cioè, scherzi, davvero? No, no. Ma infatti, no, no, cioè, no, no, no. Giusto, potremmo parlarne anche lì di Pisa e il Pisa Mover, che figata. Cioè, mamma mia. È una di quelle, una piccola grande opera anche il Pisa Mover, che è stata fatta alla fine, costa un occhio della testa e fa un percorso che potresti praticamente fare a piedi. O comunque che poteva fare, che faceva benissimo il treno, sì, fino a anni prima, fino a un po' di tempo fa, esatto, fino a un paio d'anni fa, se dovevo andare a prendere un volo da Pisa ci andavo con il treno comunque, oppure con cosa c'erano, gli autobus, no, i termini, a 5-6 euro quanto costavano, una cosa del genere, sì, sì, che poi sono spariti per motivi legali, cioè sono stati non so se arrestati, ma comunque processati, perché tutto il Terravision e quella, sì, roba là c'era. C'era un ammisco strano. È strano, sì, non succede mai. No, non succede mai. Insomma, fatto sta che adesso io a Pisa ci vo' in macchina di solito. Il parcheggio va a finire così. Il parcheggio scambiatore e funziona a prendere l'aereo. Vabbè. Eh sì, ma tanto ce la rifanno qua la cosa, la pista. Meno male, non vedevamo l'ora. Anche i nostri amici della Piana non vedevano l'ora, l'abbiamo sentiti. Ma prima ci vuoi mandare un pezzo? Ma certo, prontissimo, un pezzone, Rodriguez Coles. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers. Tanti cuori per Rodriguez. Tanti cuori per Rodriguez e torniamo in regia. Che freddo. Oh, sta diventando freddo, eh? Fa freddo. Fa freddo. E dobbiamo finire il giro dei no. Perché no, abbiamo visto i no tav di qua e di là, i no tap, i no mus. Purtroppo non li abbiamo sentiti tutti. Abbiamo i no aeroporto. Dalla Fiana la voce si alza per ribadire il no. Questo aeroporto non lo vogliamo. Ha troppe complicazioni, c'è troppa gente brutta che ci sta dietro, non è necessario altro cemento, altre colate immense di cemento, non sono necessari altri soldi spesi per queste robe qua. Questo è quello che pensiamo noi, questo è quello che pensano gli attivisti dell'assemblea della Fiana, i compagni e le compagne, e ne ascoltiamo uno. Al telefono di Radio Wombat abbiamo Elia, un compagno attivista attivo nell'assemblea nella Fiana contro la nocività, ci aggiorna su quanto sta succedendo riguardo all'aeroporto e alla nuova pista. Ciao Elia. Ciao, buonasera a tutti. La situazione è un po' questa, il progetto è in fase di approvazione al Ministero. Ci sono delle varie conferenze dei servizi e sono state via via rimandate negli ultimi mesi, quindi da questo punto di vista il progetto è a un livello abbastanza avanzato. Ci sono ovviamente delle contrarietà anche a livello governativo, ovviamente, come è abbastanza chiaro da quello che si legge sui giornali, contrarietà che però non si sono ancora espresse in nessun modo. Quindi l'iter sta andando avanti. I comuni che si erano detti contrari, quindi 7 comuni della cintura di Firenze, stanno mantenendo questa linea, però non sta portando grossi risultati. Un esempio che posso fare specifico è quello di Signa, un comune molto ambiguo sul tema dell'aeroporto. Proprio oggi, stasera, ci sarà un presidio al comune di Signa in riferimento al fatto che uno dei laghetti, precisamente quello di Peretola, dovrà essere spostato, preso e spostato, fatto ex novo nella località vicina Renai a Signa, e praticamente nello stesso luogo dove il comune e la regione avevano progettato una bretella che dovrebbe un po' eliminare la situazione insostenibile di traffico che c'è nella cittadina di Signa, e quindi bypassarla e arrivare direttamente passando proprio da Renai verso la Lastra. Ecco, quindi c'è questo conflitto tra il laghetto che deve essere spostato per l'aeroporto e questo cambio di viabilità per Signa che la regione vorrebbe bypassare, schiacciare gli interessi del comune a quelli dell'aeroporto. Questo è un piccolo esempio di come è stato progettato un po' l'aeroporto, quindi si è fatto tutto per decreti, la famosa via di un anno e mezzo fa di Renzi, prima di dicembre, negli ultimi giorni del suo governo, che si chiamava proprio una via per l'aeroporto di Firenze, perché era stata praticamente cuscita addosso a questo intervento. Quindi come è stato fatto questo progetto, un po' la storia si ripete anche nel piccolo. Qui nei comuni vicini. Quindi niente, la situazione è un po' questa, le promesse elettorali dei 5 Stelle stanno un po' andando a farsi friggere con varie lotte intestine tra di loro, con la Lega che un giorno dice sì e un giorno dice no, e quindi per questo si sta un po' alla finestra rispetto a quello che loro dicono e fanno, perché insomma gli annunci purtroppo stiamo abituando a capire, gli annunci poi discordano generalmente, come è il caso della Fiana della TAP, con quello che poi fanno. Certo. E l'assemblea della Fiana come reagisce a queste faccende? Allora, noi nell'assemblea, diciamo, più presidio ormai della Siana, quello che si è sviluppato negli anni sia per l'inceneritore che per l'aeroporto, la posizione ovviamente è di distanza totale dalle iniziative del governo, ma anche di quelle di buona parte della regione, ovviamente del Comune di Firenze. E quindi la nostra posizione è quella di continuare a presentare qual sia l'assurdità del progetto e sia continuare a contestare quelle che sono le connessioni, le connivenze tra politica, economia cittadina, Confindustria che si è messa a capo di questo fantomatico comitato per il sì alla fisca. Quindi sottolineare, far capire e far venire sempre più fuori sia quello che si sta andando a perdere, cioè l'ultimo pezzo di terra disponibile tra Firenze e la sua cintura, e sia l'obiettivo che sta dietro a questa operazione finanziaria, economica, che è quello ovviamente di far profitto su un pezzetto di terra che l'ultimo che è rimasto in quella zona. Quello ovviamente che noi sosteniamo è il parco, quindi la necessità di avere un parco che riequilibri la già difficile condizione che c'è dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico in questa conca che sta tra Firenze, Prato e Pistoia, e quindi la necessità di avere delle compensazioni reali rispetto alle condizioni che già viviamo, non aggiungere altre tipologie di inquinanti come era per l'inceneritore, come è per il nuovo aeroporto, ma come si rivendica la necessità di una mobilità sostenibile di diverso tipo, quindi collegamenti, interconnessioni, cioè le necessità che veramente noi abbiamo, non certamente quella di soddisfare la necessità di qualche imprenditore di venire dalla Cina a comprarsi un pezzettino della città per poi farci quando fra l'altro è evidente il fatto che la vicinanza all'aeroporto di Pisa e la facilità dei collegamenti fra Firenze e Pisa potrebbero essere una facile soluzione anche a tutta la questione dell'aeroporto. Certo, è una cosa che si ripete sempre, si ripete ormai da tanto. Questo ovviamente non vuol dire che Pisa debba poter essere caricata di tutte le cose che noi non vogliamo qui, ovviamente, cioè anche per loro deve essere una situazione sostenibile, non lo è in alcuni casi per gli abitanti sia subito limitrofi all'aeroporto, che sono anche quelli che avevano un inceneritore proprio lì accanto, ospedaletto, quindi sicuramente anche per loro deve essere sostenibile, e per questo faccio una piccola aggiunta, già nei mesi precedenti abbiamo cercato di mettere in piedi dei contatti con altri comitati che si battono contro tutte queste tipologie di grandi opere, perché comunque ci sono abbiamo ovviamente necessità, spostarsi in aereo, spostarsi in treno, gestire i rifiuti sono tutte necessità che però devono essere appunto gestite, non subite o fatte a pro di qualcuno che non sono gli abitanti, non sono le persone che vivono nei territori, e questo è il fulcro della discussione. Non ci interessa spostare 4 milioni di passeggeri su Pisa, ci interessa capire qual è la mobilità che vogliamo, sia quella aerea, sia quella dello spostamento nei propri territori. Certo. Tra l'altro è il sindaco di Firenze. Il sindaco di Firenze dichiara che gli abitanti di Brozzi e della Fiana saranno ben contenti del fatto che la pista sarà orientata in modo diverso e quindi gli aerei non passeranno così vicino. La puoi smentire questa... Questa è un giudino che è venuto fuori ultimamente e si connette a due cose. Una sono ovviamente le elezioni del Comune di Firenze, e un po' tanti che siano gli abitanti di Brozzi e Beretola ovviamente subiscono questa situazione da almeno 20 anni. E la cosa che a noi se abbiamo voluto sottolineare, abbiamo provato anche a spiegarla agli abitanti di Feretola e di Brozzi in alcune assemblee, era la contraddizione di fondo, cioè chi il PD che poi gestisce sia il comune che la regione, che è controllore e anche era con la regione uno dei maggiori azionisti. professionisti della società dell'aeroporto di Firenze, tutti quelli che lavorano nella società dell'aeroporto di Firenze, uno su tutti Carrai, uno dei rappresentanti del partito che stava al governo, che sta al governo di regione e comune. Quindi l'assurdità che chi ti ha avvelenato fino ad ora ti suggerisce una nuova via per risolvere la situazione. E ovviamente non è una soluzione, perché poi tutto quello che si subiscono ora loro ce lo risuperemo tutti in versione raddoppiata su tutta la piana. Questo ovviamente non è la soluzione. Una soluzione per gli abitanti di Treviso e Brozzi va trovata. Noi quello che diciamo è che l'aeroporto va ridimensionato e riportato a una condizione per la necessità di vita delle persone che abitano lì, ovviamente. Si fa fede, per esempio, si sottolinea che nel 2003 era stata fatta la richiesta di una nuova via da parte dell'aeroporto di Firenze, allora ADF, la via era stata sottoposta, quindi noi vogliamo aumentare i voli, che cosa dobbiamo fare? Fate questa una serie di interventi a tutela delle persone che abitano in quella zona. Tutti questi interventi che andavano sia da così piccoli interventi di doppio vetro e compensazioni di bassa caratura, arrivavano fino a stabilire in quale zone non si potesse più risiedere e quindi di prendere le persone e comprargli case da parte di ADF, comprare case in una zona di loro gradimento. Questo ovviamente non è stato fatto, i voli sono raddoppiati e le persone ovviamente vivono una condizione di disagio evidente, chiunque passi dalla via Pistoiese si ritrova magari sulla testa. Certo, ricordiamo quindi l'appuntamento di sabato, 8 dicembre. In funzione di questo si arriva sabato perché per vari motivi a noi serve per rilanciare questa questione, queste questioni di cui si sta parlando adesso, però la mobilitazione nazionale e internazionale, quella di sabato 8 dicembre, che una mobilitazione contro le grandi opere inutili e dannose in generale. Quindi, come si diceva prima, in tutta Italia ci sarà mobilitazione, dal Salento alla TAP, dalla Valsusa ovviamente in Ottav, e noi nel nostro piccolo facciamo questa iniziativa di sabato, parte la mattina, ci vediamo alle 10, circa 10 e mezza al polo scientifico e facciamo una passeggiata sui laghi e intorno ai laghi che dicevo prima, quindi il lago di Val di Rose e l'Oasi. Bene. E il lago di Peretola, dove piccolo inciso, tutti gli anni arrivano i fenicotteri e si posano nelle loro migrazioni. Quindi, non so, è possibile che qualcuno sia capitato di vedere le fotografie su qualche giornale. Quindi una passeggiata a vedere queste zone che sembrano zone che non contano niente nelle loro piantine, che addirittura si possono prendere e spostare, habitat naturali, e si possono prendere e spostare a proprio piacimento, e quindi ce ne andiamo a vedere perché dobbiamo ben sapere che cosa vorrebbero distruggere. Allora di pranzo ci troviamo al presidio, che è di là dalla strada, in via dello Smannoro. Mangiamo qualcosa tutti insieme con prodotti di giornino clandestino, ci saranno i ragazzi, i compagni di Mondeggi, ci sono tutta una serie di altre realtà che aderiscono e sostengono l'iniziativa. Trovate tutto sul Facebook, sull'evento Facebook dell'Assemblea della Piana. Poi dopo pranzo ci faranno, siccome alcuni compagni vanno anche in giro, qualcuno forse sarà a Torino, quindi si faranno dei collegamenti sia con Torino sia giù con Salento, e un'assemblea per ridirsi bene il punto a cui siamo, discutere appunto di tutte queste varie tensioni che ci sono a livello anche governativo e trovare un po' tra di noi, trovare strade per continuare a mettere i bastoni tra le ruote. Bene, perfetto, allora l'appuntamento è a sabato e ci vediamo lì. Bene, grazie. Grazie. Eccoci tornati. Torniamo per la chiusura, perché è l'ora di andare a fare altro. Se avete sentito dei martelli pneumatici durante le interviste, erano i moratori sotto al piano di sotto di casa mia. E niente, questo Cosa possiamo dirvi oltre? Se non venite sabato, andiamo sabato alle ore 10 al Polo Scientifico per una camminata. Se proprio non volete svegliarvi presto, 13.30 con il pranzo seguiranno tutti i collegamenti con compagni e compagne dai territori in lotta. Wombat Wombat. Wombat Wombat vi saluta. Focal Volve ritorna lunedì prossimo. Grippo ci ha già lasciato e quindi vi salutiamo noi al posto suo. Buona settimana a tutti, viva viva. E dai rete ai Wombat, naturalmente. Ovviamente. Go Halle Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2? Coraggio ragazzi, non siate timidi, l'importante è provarci. Sì, Clyde? 12. Ok, adesso vorrei una risposta da uno che non sia un totale deficiente. Nessuno? Coraggio, non siate timidi. Credo di saperlo io, signor Garrison. Zitto, culacchione! Ehi, non ci provare, ebreo del cazzo! Eric, hai detto la parolaccia con la C? Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, culacchione del cazzo! Kyle! Ma che cazzo dici? Eric! Hai appena ridetto cazzo! Stanley! Kenny! Chi me ne c'è? Non fa male a nessuno, cazzo, cazzerò ora, stacca cazzo! Che ne diresti se ti mandassi dal direttore della scuola? E lei che ne direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison? Come? Che cosa hai detto? Mi scusi, in realtà quello che ho detto era... Chi ne direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison?